Israele, c'è l'accordo. Pena di morte, nuovo record in Arabia Saudita. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Prime Minister Benjamin Netanyahu and his main rival Benny Gantz have just agreed to form an emergency unity government. What happened in Qatif has led to several boys being sentenced to death, including teenager Murtaza Kuedis. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, è il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Oggi Laura Faggini in assistenza e in console ritroviamo Andrea Roccabella. 349-238-6666, sms e whatsapp, ma anche facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, anche twitter, Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz. Per fare che cosa? Beh, per porre domande a me e ai miei ospiti, per commentare i temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Il primo ci arriva da Israele, accordo tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, accordo quasi in extremis, governo di unità nazionale, una sorta di alternanza prevista tra i due leader, insomma, crisi risolta, ma su questa affermazione metterei piuttosto un punto di domanda e la tradurrei immediatamente in questione. E poi Amnesty International ha diffuso il consueto annuale rapporto sulle pene di morte, sulla pena di morte, i paesi che applicano ancora questa misura. Scopriremo che nel 2019, a tale anno si riferisce il rapporto, l'Arabia Saudita ha registrato un nuovo record. Cercheremo di capire perché è così largamente applicata la pena capitale. 349-238-6666, ma la prima cosa da fare, come ogni giorno, è sfogliare i grandi dossier internazionali. Il primo tema che stiamo osservando con attenzione da alcune ore, io e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, si riferisce allo stato di salute di Kim Jong-un, il leader nordcoreano, perché diversi media, citando fonti non meglio identificate, hanno dato la notizia che dopo un intervento cardiovascolare le condizioni di salute del leader massimo si sarebbero parecchio aggravate e questo spiegherebbe la sua assenza ormai di parecchi giorni da qualsiasi avvenimento pubblico nonché messaggio televisivo. Fra l'altro anche l'anniversario sostanzialmente della fondazione del paese a cui egli è mancato. Le speculazioni stanno andando avanti, stanno traendo linfa vitale da questa informativa dell'intelligence statunitense che darebbe per precaria appunto le condizioni di salute di Kim Jong-un. Immediata la risposta da parte di Pechino, come immaginerete, che è piuttosto vicina a Pyongyang, che ha cercato di fugare il campo da qualsiasi dubbio sulla salute di Kim Jong-un, ma inaspettatamente anche dalla Corea del Sud. Seul evidentemente segue da vicino tutte le vicende di Pyongyang e dà per poco credibili le notizie che darebbero appunto Kim Jong-un malato. Se i potenziali problemi di salute di Kim fossero confermati, chiaramente si alimenterebbe un'altra questione, un altro grande punto di domanda proprio sulla successione, e in più potrebbe andare lo stato di salute che si aggrava di Kim Jong-un andare a ledere quelli che sono i lunghi colloqui sul nucleare che Pyongyang sta tessendo ormai da anni con Washington. E intanto vi segnalo un importante pezzo del The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico, che proprio in questi giorni racconta con dovizia di particolari, per quello che è possibile dato che stiamo sempre in Corea del Nord, dell'ascesa politica e non solo di Kim Yo-jong, che è la sorella negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo importantissimo proprio nel tessere la trama della propaganda e nel rilucidare a nuovo l'immagine proprio di Kim Jong-un. Poi vi porto in Siria, perché postazioni di milizie filo-iraniane e Hezbollah in particolare sono state colpite nelle ultime ore nella Siria centrale da un raid aereo, raid attribuito a Israele, ma come sapete Israele non nega, non smentisce e non conferma operazioni di questo tipo. La notizia arriva dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, lo sapete, quel a volte contestato osservatorio di base a Londra, che dà notizie dal campo tramite una vasta rete appunto di collaboratori. Secondo questo osservatorio l'attacco è stato compiuto da velivoli israeliani in una non meglio precisata base a est di Homs, siamo nella zona desertica di Palmira. Non si hanno notizie di vittime o danni materiali. Quello che è interessante è che questo attacco avviene a poche ore dalla fine della visita del ministro degli esteri iraniano Javad Zarif, dove a Damasco, proprio per incontrare Bashar al-Assad. Si muove la diplomazia, non è un caso che domani il terzetto di Astana, Turchia, Russia e Iran torneranno a discutere proprio della situazione in Siria, in particolare a Idlib. E come più volte abbiamo sottolineato da questi microfoni, il dossier siriano, la situazione in Siria, è stata sostanzialmente tolta dalle mani all'Europa, tra virgolette, è stata poi presa appunto da questo trio di paesi che si sono ritagliati uno spazio, un'importanza molto molto rilevante appunto in quello scacchiere, Turchia, Russia e Iran. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli States. E questo lo fa per proteggere, secondo le sue parole, i lavoratori americani, l'economia nazionale messi in ginocchio dall'epidemia di Covid-19. La mossa è stata enunciata in un post a tarda notte su Twitter e naturalmente va a corroborare, a consolidare quella che è la politica trumpiana del lungo termine di andare a frenare i flussi migratori. Il Partito Democratico ha immediatamente stigmatizzato e condannato questa presa di posizione, soprattutto perché si è detto da parte del Fronte Democratico che si tratta nient'altro che di armi di distrazione di massa, mentre la risposta al Covid-19, secondo molti esponenti del Partito Democratico, ma anche alcuni governatori repubblicani, è stata per il momento lenta e inefficace. Arrivano già un po' di messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi però dare un'altra notizia che arriva dall'OMS, un comunicato ufficiale che recita testualmente: tutte le prove a nostra disposizione suggeriscono che il virus ha avuto un'origine animale, non si tratta di un virus manipolato, costruito in laboratorio o in qualunque altro luogo. La dichiarazione è arrivata da Ginevra, dove vi è la sede di questa importante agenzia dell'ONU. Probabilmente arriva questa dichiarazione ufficiale e formale a distanza di settimane in cui si sono rincorse una serie di speculazioni e teorie complottiste sul fatto che, mettendo in mezzo gli attori più improbabili, tra cui anche la CIA o i servizi di chissà quell'altro paese, avrebbero appunto creato quest'arma chimica in grado di piegare il mondo. Ecco, l'OMS si è sentito in dovere di fugare qualsiasi dubbio, ribadendo che ha avuto origine animale. Infine, proprio ieri vi davo conto di una tesi piuttosto attraente ai nostri occhi, che arriva da Allan Bem, che è il capo del programma di affari internazionale di sicurezza presso l'Australia Institute. Che cosa dice Allan Bem? Beh, che sostanzialmente prende come modello di partenza l'Australia. Ricorderete incendi enormi l'estate scorsa, un attentato vero e proprio alla sicurezza nazionale. Poi prende il Covid-19, anch'esso è un attentato alla sicurezza nazionale, e dice: forse è il caso di dimenticarci, è una provocazione evidentemente, che il terrorismo sia la vera minaccia. Forse va ripensato l'intero sistema della sicurezza nazionale, anche come paradigma, quasi una sorta di cambio intellettuale e di visione di come i paesi debbono garantire appunto la propria sicurezza. Gli abbiamo chiesto di spiegarci a voce questa sua tesi, sentite. In my opinion, we have first to rethink. Per prima cosa, credo che si debba ripensare la relazione tra lo Stato e i cittadini. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale, lo Stato ha sempre avuto il primato sui cittadini. Perciò, il concetto di sicurezza nazionale, concepito come protezione dell'integrità dello Stato, è stato monopolizzato dalle forze armate. Mentre oggi, la vera minaccia non proviene da uno Stato nemico, ma piuttosto dalle catastrofi. E per questa ragione dobbiamo porre i cittadini nuovamente al centro delle politiche di sicurezza nazionale. In secondo luogo, appare ormai necessaria l'esigenza di pensare al futuro. Il nostro sistema di pianificazione deve essere proattivo e lungimirante, perché la capacità reattiva di un sistema nasce dalla corretta e preventiva pianificazione, e questo prevede di ripensare completamente le strategie di sicurezza nazionale. Il terzo punto riguarda più un certo tipo di mentalità. Dobbiamo passare dal concetto di controllo delle persone a quello di empowering delle persone stesse, per rendere gli individui attivi partecipi della propria sicurezza e della sicurezza dello Stato. Infine, sono convinto che per mettere in pratica tutto ciò dobbiamo pensare molto di più in termini di prevenzione, piuttosto che di semplice intervento. I nostri governi sono estremamente efficienti nell'intervenire in una crisi, ma molto meno efficaci nel prevenirla. Quindi, se avessimo avuto un sistema di coordinamento internazionale, specializzato nella gestione delle pandemie, i governi sarebbero stati più efficaci nel controllare l'epidemia nella primissima fase. Se fosse stato così, molte meno persone in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito o Stati Uniti, o anche in Australia, sarebbero morte. Questo è il mio paradigma per ripensare il concetto di sicurezza nazionale. Questa è la voce di Alan Bam, lo ripeto, è il capo del programma di affari internazionali di sicurezza presso l'Australia Institute. Direte voi, il caso degli incendi in Australia sono un caso particolare, un fenomeno specifico che ha colpito soprattutto quel paese, in realtà poi ha colpito anche altri paesi, altre latitudini effettivamente, ma quanto questo nuovo paradigma è replicabile in altri paesi e quanto soprattutto le grandi potenze internazionali sono disposte a rivedere il paradigma stesso. Sentite cosa dice ancora Alan Bam. Credo che in tutto il mondo i cittadini siano pronti per un cambio di mentalità rispetto alla propria sicurezza, incolumità e benessere economico. Quello che abbiamo sperimentato negli ultimi decenni è un totale fallimento del modello economico neoliberale. Il risultato di tutto ciò è stata una crescita enorme delle disuguaglianze. E sono proprio le disuguaglianze che hanno reso i cittadini vulnerabili ai rischi del cambiamento climatico o della pandemia. Sono convinto quindi che in tutto il mondo le persone siano pronte a ripensare completamente i concetti di sicurezza. La domanda reale però è: i nostri governi sono altrettanto pronti a un tale cambiamento? Sinceramente, non ne sono affatto convinto. Così Alan Bam, e così invece un ascoltatore che risponde immediatamente alla descrizione del paradigma secondo l'analista australiano. Il sistema di protezione civile che opera in Italia proprio per le catastrofi dipende dalla partecipazione dei volontari, perciò cittadini risponde proprio a quello che dice il vostro intervistato. Così un ascoltatore, qualcun altro ironizza sul fatto che si possa o si debba credere all'OMS, sottolineando quella che è stata anche una comunicazione ambigua soprattutto all'inizio, e qualcun altro bolla la teoria come più furba che intelligente, nel senso che fa leva sull'egocentrismo dell'era dei social. Queste le vostre prime reazioni. Adesso Andrea Roccabella, chiudiamo il nostro fascicolo, i nostri dossier internazionali e andiamo in Israele. Non solo Benjamin Netanyahu ha vinto, ma si è garantito Gantz come bodyguard e sarà protetto da Gantz, proprio quel Gantz che aveva detto che mai avrebbe accettato un governo da chi è sotto processo. Non sono parole mie, sono le parole scritte piuttosto che con l'inchiostro, direi col vetriolo, ma ogni tanto Anshel Pfeffer, editorialista di Haaretz, autore di una biografia su Netanyahu, poi ripreso recentemente anche dal New York Times, è avvezzo a tratteggiare con tono critico Benjamin Netanyahu, politico di lungo corso che ce l'ha fatta sotto l'ombra lunga del processo che lo attende a brevissimo, è riuscito nell'impossibile, l'accordo con l'ex rivale Benny Gantz, ex capo di Stato Maggiore, politico di primo pelo, perché è sceso nell'agone politico da molto meno tempo di Benjamin Netanyahu. Insomma, è riuscito il miracolo. Il miracolo starebbe nell'evitare la quarta tornata elettorale nel giro, pensate, di un anno, adesso che il Covid-19 è una seria minaccia anche per Israele. Cerchiamo di capirne meglio qualcosa con Nello Del Gatto. Scrive e racconta Israele non solo per Agi da Gerusalemme. Nello, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, è un colpo di scena o no, Nello Del Gatto? Ti aspettavi questa cosa in extremis? Il presidente Rivlin aveva dato l'incarico alla Knesset e poi a un certo punto si è trovato l'accordo. Ma io me lo aspettavo, l'avevo anche detto, anche perché insomma, ti ho provocato apposta. Non c'era una soluzione diversa, nel senso che ormai dopo tre elezioni le quarte sarebbero state le stesse. Tra l'altro, chi avrebbe avuto il coraggio di mandare alle elezioni un paese che ha problemi economici in questo momento, come tutto il mondo, sì, e che sta affrontando un'epidemia del genere? È vero che le terze elezioni si sono affrontate con il coronavirus, ma è anche vero che in quel momento non c'era la crisi mondiale che c'era adesso, non c'era la crisi delle vittime che c'era adesso, non c'era la crisi economica. Sì. Andare a votare il 4 di agosto sarebbe stato tragico per tutti, nessuno avrebbe vinto, ci saremmo trovati di nuovo in un momento di stallo. Sì. Quella che è arrivata è l'unica soluzione possibile. Si è stato chiedersi perché non l'abbiamo fatto prima, ecco, questo potrebbe essere una buona domanda. Ma non perché l'abbiamo fatto adesso. Sì. Le parole che sentite sono di Nello Del Gatto, ci arrivano da Gerusalemme, che è stata al cuore, è stato il centro di una profonda diatriba politica fino a poche ore fa, quando nel tardo pomeriggio di ieri i due leader hanno twittato dicendo abbiamo raggiunto l'accordo. L'accordo peraltro viene raggiunto tra il Likud e ciò che resta del partito blu e bianco, quelli che si sono sganciati, si sono smarcati da Benny Gantz bollandolo come traditore, gridano allo scandalo. Peraltro abbiamo anche dato notizia di quella manifestazione a Tel Aviv, se non erro 2000 persone, distanziamento sociale, che protestavano appunto contro un possibile governo di Benjamin Netanyahu. Come farà Nello Del Gatto Benjamin Netanyahu a difendersi dalle accuse di corruzione? La data del processo è piuttosto vicina. Sì e no, nel senso che non si sa quando sarà la data del processo, perché è stata rinviata a maggio e bisogna aspettare che insomma si decida come fare per il coronavirus. Beh, lui ha vinto politicamente, perché hanno fatto un accordo di 14 pagine, ma un contratto vero e proprio che prevede qualsiasi cosa. In questo contratto, uno dei motivi, abbiamo anche parlato in passato, uno dei problemi maggiori era proprio la questione della giustizia nei confronti del premio. Ebbene, Netanyahu che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto innanzitutto che per 6 mesi si fa un governo di unità e di emergenza, per cui tutti e due sono alla pari. Sì. Dopo 6 mesi sarà Netanyahu a guidare e poi Gantz delle sue superiori. Sì. Però perché i primi 6 mesi è così? Perché la Corte, l'Alta Corte dovrebbe decidere se Netanyahu può o meno fare un governo essendo incriminato. Certo. La legge israeliana, lo ripeto, dice che soltanto i ministri non possono essere in carica se sono incriminati, ma non il numero del primo ministro. Ma nessuna Alta Corte in questo momento di emergenza delibererebbe a sfavore di un primo ministro, certo, mandando il paese, certo, alle urne. Ecco perché lui ha dettato questo termine. In più avrà il diritto di veto, anche se il ministro della giustizia non sarà il suo, ma lui avrà il diritto di veto su tutta una serie di situazioni, e il membro della commissione che decide le nomine dei giudici è un suo grande sodale, anche se però fa parte del partito di Gantz. Quindi sodale nel senso che la vedono allo stesso modo, hanno la stessa visione, sì, della giustizia. Ecco perché dico, da questo punto di vista lui ha vinto. Sì. Poi da qui a dire, sì, che non sarà incriminato altro, ovviamente se ne corre, perché questo comunque è un paese democratico e bisogna andare davanti ai giudici. Certo. Quando non si sa. Certo, interessante la visione, il punto di vista di Nello Del Gatto. D'altra parte racconta con dovizia di particolari, lo ricordo, per Agenzia Giornalistica Italia, le vicende politiche non solo israeliane ma anche palestinesi, una sorta di pressione psicologica che viene esercitata sull'Alta Corte, che mai e poi mai andrebbe a far ripiombare Israele in uno stato di caos e di ingovernabilità. È quello su cui sta puntando Benjamin Netanyahu. Naturalmente nelle prossime ore, nei prossimi giorni avremo notizie e capiremo meglio. È uscita qualche indiscrezione su come si spartiranno i ministeri, c'è anche probabilmente un laburista che si piglia un ministero, forse c'è vita sul pianeta della sinistra israeliana, chissà, dopo tanti anni. Nello Del Gatto, torneremo sicuramente a collegarci con te, a disturbarti per raccogliere le ultimissime, una volta che questo governo vedrà luce. Nello Del Gatto, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, sarà sempre un piacere. Arrivederci. Dalla voce che arrivava da Gerusalemme di Lello del Gatto, Agenzia Giornalistica Italia, alla vostra voce, metaforicamente ovviamente, leggo i vostri messaggi al 349-238-6666. Molti ascoltatori tornano su quel concetto che è stato propugnato dall'ANBEM e sembrano, come dire, accogliere quello che è l'invito che arriva dallo studioso australiano Davide da Padova. Scrive, per esempio: ripensare i concetti di sicurezza significa uscire dal paradigma statale e iniziare la discussione per un paradigma federale e addirittura mondiale, invocando, Davide, quella che è una necessità dettata per esempio dalla pandemia, che per definizione è una crisi non soltanto globalizzata ma anche globalizzante, perché impone scelte comuni, cosa che evidentemente non stiamo vedendo assolutamente in queste settimane. Parole confortanti: la persona al centro della politica, intesa come arte di governare. Così un altro ascoltatore, anzi ascoltatrice, chiedo Vienna, Venia era Fiorenza. Allora adesso vi propongo, da quelli che sono i vostri messaggi, che sembrano incentrarsi proprio sull'importanza dell'individuo, dei diritti individuali, vi propongo di andare a rileggere quello che è il drammatico rapporto che viene diffuso ogni anno da Amnesty International, importante organizzazione non governativa che si occupa proprio della tutela dei diritti. Ebbene, il rapporto appena diffuso parla della pena di morte. Ascoltiamo, ai noi, i numeri. 56 anni fa, nel 1964, veniva inflitta l'ultima pena capitale della storia della Gran Bretagna. Alle 8 del mattino del 13 agosto venivano impiccati Gwyn Evans e Peter Allen per l'assassinio di John Alan West. In Francia, l'ultimo giustiziato si chiamava Hamida Jandoubi, condannato per l'uccisione della compagna. L'11 settembre del 1977 gli fu tolta la vita per mezzo della ghigliottina. All'alba del 4 marzo 1947 è stata applicata l'ultima pena capitale della storia italiana. Giovanni Puleo, Francesco La Barbera e Giovanni Dignoti sono stati fucilati per omicidio. Oggi la pena capitale viene ancora adottata in 55 dei 195 stati delle Nazioni Unite. 104 stati l'hanno abolita, 8 l'hanno abolita per i crimini ordinari, ma la applicano ancora per i crimini di guerra. In 28 paesi si è avviato il processo per la sua abolizione. Il rapporto 2019 di Amnesty International evidenzia per il quarto anno consecutivo una flessione del numero dei giustiziati, che passa dai 690 del 2018 ai 657 del 2019. I numeri però salgono in Arabia Saudita, che con 184 casi si colloca al terzo posto nel mondo, e in Iraq, dove rispetto all'anno scorso sono raddoppiati. Al primo posto c'è la Cina, con un numero imprecisato di esecuzioni che si può identificare con qualche centinaio, seguita dall'Iran con 251 persone mandate a morte. Tra i giustiziati iraniani, 4 all'epoca dell'arresto erano minorenni. 2 di loro, condannati per stupro, l'anno scorso sono stati uccisi in segreto nella prigione di Adelabad, a Shiraz. Non solo non era stato loro comunicato della condanna a morte, denuncia Amnesty, ma sul corpo recavano i segni delle percosse e delle frustate subite. Così in pochi secondi abbiamo fotografato il lungo lavoro che ha preso gli analisti e ricercatori di Amnesty International. Chiediamo lumi e cerchiamo di entrare nelle pieghe, tra le pagine, tra le righe di questi apparentemente freddi numeri. Lo facciamo con Chiara San Giorgio. Amnesty International si occupa di advocacy, advisor e analista proprio sul tema della pena di morte. Chiara San Giorgio, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille. Allora, che bilancio possiamo tracciare rispetto all'applicazione della pena di morte a livello globale? I numeri a livello assoluto stanno calando, è un buon segnale o non è sufficiente secondo lei? Sicuramente è un buon segnale. L'analisi che abbiamo condotto ha evidenziato che la trend globale rimane verso l'abolizione. Non solo vediamo il numero dei paesi che fanno esecuzioni essere limitato a 20, ma di questi vediamo anche che il numero di quelli che lo fanno in maniera tenace, che fanno si sta riducendo sempre di più. Ne abbiamo contati 13 solamente l'anno scorso. È significativo il fatto che le esecuzioni sono comunque al livello più basso storicamente che abbiamo ricordato, registrato. Abbiamo infatti registrato l'anno scorso il numero più basso di esecuzioni in più di 10 anni. Questo è significativo per due motivi. Da un lato abbiamo paesi come l'Iran che ha fatto cambiamenti nella legge sulla droga e ha di conseguenza riportato sempre meno esecuzioni negli ultimi anni. E dall'altro abbiamo un dato molto basso a livello globale, nonostante gli incrementi in paesi come l'Iraq e l'Arabia Saudita, che invece, ahimè, hanno incrementato le loro esecuzioni. Sì, la voce che state ascoltando è quella di Chiara San Giorgio del Regno Unito, ricercatrice e analista di Amnesty International, lavora proprio sul tema della pena di morte. Un po' li ha già nominati, San Giorgio, i paesi che destano più preoccupazione. Noi peraltro nell'ultima parte della trasmissione faremo un approfondimento proprio sull'Arabia Saudita, però citava anche l'Iraq che sta vivendo momenti assolutamente turbolenti sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico. Perché questa impennata nei numeri? Sì, l'Iraq l'anno scorso ha duplicato il numero di esecuzioni, passati a quasi 100, più di 100 esecuzioni, e abbiamo visto che molti dei casi in Iraq erano casi collegati al conflitto con ISIS. C'è da dire che i processi che hanno portato alle esecuzioni sono stati sciambolici e non equi. Abbiamo avuto informazioni su processi che sono durati da qualche minuto a qualche ora, di avvocati non presenti, a prescindere da quello che si pensa sul conflitto sull'Iraq, questi sono dati che sono scioccanti e non si possono difendere. Assolutamente. Chiara San Giorgio, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse, poi ho l'ultima domanda per lei che riguarda forse uno dei grandi buchi neri per ciò che riguarda le vostre ricerche, che è la Cina. Tra pochissimo. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Partiamo dal rapporto di Amnesty International che fotografa a livello mondiale, a livello assoluto, un calo. Si sta andando verso l'abolizione più o meno della pena di morte, con alcuni distinguo tra i vari paesi, maglia nera, la Cina, l'Iran, ma anche l'Arabia Saudita, l'Iraq. Un rapporto dettagliato che nasconde dietro la freddezza di alcune cifre, di alcuni numeri, delle storie che cercheremo naturalmente di raccontarvi e restituirvi. La voce che sentirete tra poco nuovamente quella di Chiara San Giorgio, che è ricercatrice per Amnesty International. Prima però un paio di WhatsApp che sono arrivati al 349-238-6666. Qualcuno si chiede in Corea del Nord quanti vengono uccisi senza notizie, e poi chiede se gli Stati Uniti sono contati come paese unico, così Sam che invece vuole sapere se vi sia magari la possibilità di un conteggio stato per stato. Qualcun altro scrive: in questi paesi la pena di morte è un'arma di governo, e questo messaggio è anticipato da un altro messaggio che dice: sembra quasi un paradosso, in un paese ricco come l'Arabia Saudita le morti per pena capitale siano paragonabili a stati come Iraq e Iran. Vedo un filo conduttore, continua l'ascoltatore, nella cultura dell'esercizio del potere governativo di tipo assolutistico e illiberale. Proprio su questo punto ci concentreremo nell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Fatemi però tornare a Chiara San Giorgio, analista e ricercatrice per Amnesty International, che a un certo punto, San Giorgio, credo che anche lei, di fronte al grande buco nero cinese, si debba in qualche modo fermare. Come si possono valutare dati in un paese che non fa della trasparenza la sua arma migliore? Sì, i dati riguardo alle esecuzioni e le sentenze di morte pronunciate in Cina rimangono classificati come segreto di Stato. Noi ad Amnesty International continuiamo il nostro monitoraggio e tramite questo siamo riusciti a stabilire alcuni fatti. È un fatto che la pena di morte continua a essere usata in Cina per punire casi di traffico di droga in maniera molto estensiva. Sì. È anche un fatto che i processi continuano a non essere non giusti. Questo è stato visto per esempio nel caso di un canadese che è diventato una specie di premio, diciamo, nelle relazioni internazionali tra la Cina e il Canada, e che è stato sottoposto a un processo che è durato un giorno. Sì. E è risultato morte. È un altro fatto il fatto che la Cina usa la pena di morte ancora come un'arma nella campagna contro, nella regione autonoma Uyghur dello Xinjiang. Abbiamo informazioni su, per esempio, il caso di Tashfu Latif, che era il presidente dell'Università dello Xinjiang, che è stato che è sparito ed è stato condannato a morte, e finora non abbiamo ancora notizie. Presumiamo che sia a rischio di esecuzione imminente. Sì. La interrompo, San Giorgio, per ribadire ancora una volta come in alcune regioni, soprattutto della Cina, il pugno pesante del regime si faccia sentire e lo faccia, fra l'altro molto spesso, come sottolineava, nel silenzio, nella cecità forzosa della comunità internazionale. Invece mi può dire qualcosa sul tema, rispondendo all'ascoltatore che chiedeva degli Stati Uniti? Gli Stati Uniti immagino siano conteggiati come realtà unica, oppure fate un distinguo a seconda degli stati, perché in alcuni la legislazione è diversa, no? Assolutamente, gli Stati Uniti li consideriamo come un paese unico, ma diamo anche un'analisi stato per stato, stato per stato. È importante notare che negli ultimi anni abbiamo visto una fase di sostanzialmente di discesa nel numero di esecuzioni e sentenze di morte negli Stati Uniti. In particolare abbiamo visto che le sentenze di morte sono crollate di più del 40% l'anno scorso. Questo è sicuramente significativo e continuiamo a vedere che la maggior parte delle esecuzioni sono state fatte in Texas. Il Texas solo conta per quasi la metà di tutte le esecuzioni, che sì, erano 22 l'anno scorso. Sì. Ci sono state buone notizie, se posso annunciarle. C'è stato lo stato di New Hampshire, che è diventato il 23° stato ad abolire la pena di morte l'anno scorso, e il governatore della California ha stabilito una moratoria su tutte le esecuzioni. E la California è tuttora lo stato con il numero più grande di prigionieri nel braccio della morte. Sì. Sicuramente incoraggiante. Grazie mille, Chiara San Giorgio, per essere stata con noi, ricercatrice di Amnesty International. Ci ha anche aiutato a fotografare anche la diversità, le varie tonalità di grigio rispetto a questo tema che esistono negli Stati Uniti. Ha citato il Texas, a me viene sempre in mente il libro di Lawrence Wright, Dio salvi il Texas come grande termometro e epicentro, se volete, per leggere gli Stati Uniti. Grazie mille, Chiara San Giorgio, da Londra, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, tra pochissimo apriremo il capitolo saudita e c'è qualche ascoltatore che si pronuncia proprio su questo paese. Il messaggio recita testualmente: ogni paese applica le pene più efficaci per il popolo che lo abita. In Arabia Saudita le pene di morte, nonché la lapidazione in piazza, hanno una forte valenza educativa. Qualcun altro dice, no, questo è sui contagi in Cina, chiedo venia, mi ero fatto trarre in inganno dall'inizio del messaggio. Invece un altro ascoltatore che dice, giustamente, bisognerebbe considerare anche le esecuzioni eseguite fuori dal paese, cita l'omicidio, direi, a questo punto, a Khashoggi, e tanti altri non menzionati nelle cronache che in un modo o in un altro hanno dato fastidio ai potenti, sono stati fatti fuori anche con incidenti stradali provocati, non solo con plateali esecuzioni come quella di Khashoggi. Così Mario da Udine, vi dicevo, Arabia Saudita. L'8 aprile del 2020 in Arabia Saudita è stata eseguita la condanna a morte di Abdul Monsin Umud Abdullah Al-Ghmadi. Di lui si sa poco, secondo quanto ricostruisce il quotidiano inglese The Times. L'uomo è stato decapitato per aver commesso un omicidio. Perché, vi chiederete, ci interessa la sua storia? Perché con la sua morte il numero di esecuzioni capitali registrate in Arabia Saudita ha raggiunto quota 800 a partire dal 2015, anno in cui è salito sul trono il re Salman bin Abdulaziz. Sotto il suo regno il numero di persone condannate a morte è raddoppiato rispetto ai 5 anni precedenti. Tra il 2009 e il 2014, infatti, le condanne a morte erano state 423 e, come avete sentito anche dalle parole della San Giorgio di Amnesty International, solo nel 2019 sono state eseguite 184 condanne a morte comandate e fatte eseguire dal sistema giudiziario di Riyadh. Del totale, 48 sentenze capitali eseguite per reati connessi alla droga, 55 per omicidio, 37 per reati connessi al terrorismo, 5 per stupro, 2 per lesioni stupro e 1 per rapina a mano armata e stupro. Non c'è dubbio, e lo denuncia lo stesso Amnesty International, che è aumentato l'uso della pressione e dell'utilizzo della pena capitale come vero e proprio strumento di pressione politica, in particolare contro la minoranza sciita, che pure popola l'Arabia Saudita. A questo punto vi faccio sentire la voce di un'altra analista, un'altra ricercatrice. Lei si chiama Maya Foa, è direttore di Reprieve, un'ONG con sede a Londra. Sono tutti avvocati, sono impegnati, così come la sorella maggiore, se volete, Amnesty International, proprio nella lotta alla pena di morte, alle detenzioni a tempo indeterminato senza processo, alle esecuzioni extragiudiziali. A lei abbiamo chiesto perché c'è stato questo aumento nelle esecuzioni in Arabia Saudita. Sentite. Per capire il perché dell'aumento delle esecuzioni capitali, è importante osservare chi sono le persone che le autorità saudite hanno deciso di condannare a morte. L'anno scorso sono state eseguite quasi 200 condanne a morte, il numero più alto da quando abbiamo iniziato a registrare le esecuzioni capitali, assieme alla European Saudi Organization for Human Rights. 37 persone sono state giustiziate in un solo giorno. Sono state giustiziate per cosiddetti crimini politici e tra loro c'erano almeno 6 minori, ovvero persone che non avevano ancora compiuto 18 anni quando hanno commesso il presunto reato. Sembra che quello che sta succedendo è un aumento del ricorso alla Specialized Criminal Court, un tribunale noto per l'uso di confessioni forzate ottenute con la tortura. Alle persone arrestate viene negato il diritto di avere un avvocato e di conoscere le accuse nei loro confronti e vengono giustiziate sommariamente. Molto spesso vengono arrestate per aver partecipato a manifestazioni per la democrazia, dove i giovani vengono arrestati, torturati, costretti a confessare e successivamente giustiziati. Questa è la prima drammatica fotografia che ci arriva da Maya Foa, direttore di Reprieve, e riguarda l'Arabia Saudita. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come va la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, se solo adesso vi siete sintonizzati. Questo è Nessun Luogo Lontano. In questa ultima pagina ci focalizziamo ancora di più sul caso saudita. Perché? Perché il 2019 è stato l'annus horribilis per il regime di Riyadh, almeno dal punto di vista della società civile e della comunità internazionale, che con apprensione guarda un numero record di sentenze capitali, 184. Molto spesso a farne le spese, secondo le denunce di Amnesty, sono dissidenti politici, la minoranza sciita, qualcuno al 349-238-6666, qualcuno di voi ascoltatori scrive: il principe saudita non ha bisogno della pena capitale, tanto chi vuole eliminare lo elimina e basta, così Samma. Ma evidentemente questa quasi formalizzazione, istituzionalizzazione deve avere negli intenti del potere giudiziario di Riyadh anche un potere di deterrenza, chissà poi quanto possa funzionare. Vi faccio sentire ancora la voce di Maya Foa, che è direttore di Reprieve, ONG con sede a Londra, che da anni lavora proprio su questo tema. Chi sono le persone che vengono condannate a morte in Arabia Saudita? Proviamo a fare un piccolo sforzo, andare al di là di quelli che sono semplici numeri. In realtà ci sono persone che molto spesso muoiono ingiustamente e molto prima del tempo. Among those who were executed Tra coloro che sono stati giustiziati nell'esecuzione di massa dell'aprile 2019, c'era anche un ragazzo di nome Muitaba al-Shveikat. Aveva solo 17 anni quando è stato arrestato all'aeroporto, dove stava per imbarcarsi per il Michigan, negli Stati Uniti, dove aveva trovato un'università in cui studiare. È stato torturato brutalmente, tenuto in isolamento, non ha potuto incontrare un avvocato né la sua famiglia. È stato costretto a firmare una cosiddetta confessione relativa alle accuse di aver partecipato a una manifestazione per la democrazia durante la primavera araba. Muitaba è stato giustiziato senza preavviso. Né la sua famiglia né il suo avvocato, e probabilmente nemmeno lui, sapeva che stava per essere ucciso. Purtroppo il suo corpo non è mai stato restituito alla sua famiglia. Così Maya Foia, direttrice di Reprieve. Risponde invece un ascoltatore al 349-238-6666 che punta il dito perché dice: Amnesty non ha detto una sola parola su Assange, e fra l'altro dice si nasconde dietro un dito virtuale peraltro. Adesso non voglio fare un battibecco in particolare con uno degli ascoltatori, ma siccome come dire, banalizzava l'importanza della questione pena di morte, allora vorrei rassicurarlo, gentile ascoltatore, che non è che non stiamo parlando di Assange perché non vogliamo parlare di Assange, è che la puntata è sulla pena di morte e sul report di Amnesty International, e questa è una notizia. Capirà anche lei che ci sono dei criteri anche per andare in onda che sono non soltanto intellettuali e logici, ma a volte rispondono anche a una logica precipua e ferra, che è quella proprio del giornalismo. Se esce un rapporto di Amnesty International è una notizia, ci andava di darla e di approfondirla. Torneremo sicuramente sul caso Assange, come abbiamo fatto peraltro anche in passato. Ancora la voce di Maya Foa, prima di dare spazio all'ultimo ospite di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. C'è una situazione di limbo quando un detenuto in Arabia Saudita aspetta la pena capitale, è nel cosiddetto braccio della morte, così come accade in tanti altri paesi. Ma chi sono queste persone? Sentite ancora Maya Foa. Se andiamo a guardare le storie di coloro che si trovano nel braccio della morte, ci sono casi di persone che erano ragazzi al momento dell'arresto. Ali al-Nimr, ad esempio, aveva solo 17 anni quando ha partecipato a una manifestazione per la democrazia. È stato arrestato, brutalmente torturato, e tra le cosiddette accuse mosse nei suoi confronti ci sono quelle di aver gestito il primo soccorso durante le proteste e aver invitato altre persone a manifestare usando il suo BlackBerry. Si tratta di comportamenti che nessun sistema sensato considererebbe crimini. Eppure, sono stati considerati sufficienti per condannare questo giovane uomo, questo ragazzo, non solo alla pena capitale, ma alla crocifissione. Ali al-Nimr è ancora vivo, ma lui, come tutti coloro che si trovano nel braccio della morte, possono essere giustiziati in qualsiasi momento. Oggi, più che mai, è importante che la comunità internazionale si concentri su questo tema e che queste vite non passino inosservate. Questa è la situazione in Arabia Saudita, ma per capire meglio le dinamiche e il perché e le motivazioni di questo numero record del registrato nel 2019, ci soccorre in questa analisi Cinzia Bianco, analista dell'European Council of Foreign Relations. Cinzia, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano. Buongiorno, grazie. Allora, nel 2018, in un'intervista al Times, Mohammed bin Salman aveva dichiarato di voler minimizzare il ricorso alla pena capitale, e poi non è andata esattamente così. Che cosa sta accadendo? Perché questo numero record in Arabia Saudita? Perché indubbiamente Mohammed bin Salman ha consolidato la propria posizione nei confronti di tantissimi gruppi sociopolitici che erano, sono stati considerati appunto dei luoghi per dissidenti, per cui ha intensificato la sua reazione contro non solo gli arabi, i sauditi sciiti, ma anche i sauditi islamisti, per esempio. E man mano che la politica saudita si è andata polarizzando, la reazione dello Stato saudita nei confronti di questi prigionieri si è andata rafforzando ancora di più. Per cui sono, le due cose sono strettamente legate e la tendenza sembra essere quella. Sì. L'analisi, come sempre, preziosa. Stavolta ci arriva da Cinzia Bianco, analista dell'European Council of Foreign Relations si occupa dei paesi del Golfo ormai da parecchi anni. Un ascoltatore scrive al 349-238-6666: ora che più nessuno vuole comprare il petrolio, la comunità internazionale ha più potere contrattuale per pretendere l'abolizione della pena di morte in Arabia Saudita. È sufficiente questo, Cinzia Bianco, oppure c'è molto di più in gioco e l'Arabia Saudita è un alleato strategico e fondamentale anche per altri motivi? Sto pensando agli Stati Uniti. Assolutamente, di sicuro la questione del petrolio è fondamentale e la leadership saudita è molto importante per i sauditi proprio perché gli dà forza contrattuale sulla scena internazionale, ma non è assolutamente solo questo. Ci sono dal punto di vista saudita il bisogno geopolitico di contrastare l'Iran, dal punto di vista europeo il bisogno di stabilità che oramai è diventato quasi un mantra, per cui in effetti le leve nei confronti di Riyadh sono ben poche. Sì, allora abbiamo sentito parlare della Specialized Criminal Court, cioè la Corte Criminale Speciale, che è quella che va a comminare sostanzialmente le sentenze di pena di morte. Quanto è indipendente il potere giudiziario? Che ruolo gioca questa Corte così speciale? È molto poco indipendente ed è diventato tristemente palese con il processo per l'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, che purtroppo ha avuto molti punti deboli, per cui sicuramente la situazione è che il controllo politico è fortissimo, anche e soprattutto rispetto alla Human Rights Commission, che per esempio Mohammed bin Salman e altre la leadership saudita ha fortemente voluto e anche sulla carta rinforzato, ma poi in realtà non riesce a contrastare in nessun modo l'azione, diciamo, statuale. Grazie mille Cinzia Bianco, lo ricordo, è analista dell'European Council of Foreign Relations, per essere stata con noi e averci aiutato a fotografare quella che è la complessità dell'Arabia Saudita, soprattutto relativamente al rispetto dei diritti umani, in particolare alle minoranze o tutto quello che è la dissidenza politica. Cinzia, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata. (349) 238 6666. Una considerazione banale, scrive un ascoltatore: da una parte stiamo spendendo a livello mondiale miliardi di dollari per salvare vite umane, dall'altra mandiamo al patibolo persone senza un giusto processo o addirittura senza processo. A direi niente affatto banale la considerazione se, come dire, mettiamo il grand'angolo, come amiamo dire noi, no? Assistiamo da una parte a uno sforzo incredibile per salvare vite e dall'altra parte queste vite vengono consumate e bruciano nel giro di pochissime ore, magari in uno stanzino, qualche compound dei servizi segreti sauditi, ma anche tanti altri paesi. Qualcuno mi chiede lumi su quella che è la situazione della pena di morte in Africa. Bisogna distinguere da paese a paese, anche da reato a reato. Magari ci torneremo se il tema vi intriga e vi interessa. Lo sapete, potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook e sul logo lontano-radio24 anche per, non dico fare richieste, ma insomma suggerimenti su temi a voi particolarmente cari che vorreste che noi affrontassimo. E se vi ha stupito la grammatica musicale utilizzata da Andrea Roccavella, c'è qualche fan metal che ci sta seguendo ultimamente sui social. Questa è una band israeliana, Orphaned Land, che abbiamo scoperto da poco. Sono interessanti, ma ve li sottopongo anche perché hanno un preciso messaggio politico. Hanno fan in Libano, nei territori palestinesi. In un recente documentario che dura circa un'oretta e anche facilmente trovabile in rete, il cantante, il leader di questa band, alla domanda come si può risolvere il conflitto israeliano, risponde chiaramente: beh, è molto facile, date il dossier in mano a noi musicisti e vedete che lo risolviamo in senso buono. Nel giro di una settimana faremo concerti e ci stringeremo la mano. Ecco, con questo afflato poetico sono sicuro, vorrei chiudere la puntata, ma sono sicuro verrà interrotto dall'ordine perentorio di Andrea Roccavella. Bravo, bravissimo. Che è preludio ovviamente ai ringraziamenti a tutti voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani, ore 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.